3. Fuori dall'emporio non c'era anima viva, solo polvere e ciuffi d'erba bruciati dal sole. Il battello dei Graf aveva scaricato 5 giorni prima, come ogni settimana. La merce era finita a mezzogiorno. Andava così da almeno 3 mesi, da quando i ribelli di Holbany avevano preso il controllo del fiume e non c'era barca sul basso corso del Mohawk che sfuggisse alle loro attenzioni. Il signor Graf riceveva un trattamento speciale, in nome di parentele e antichi favori. La sua mercanzia era la sola a navigare senza disturbi oltre Fort Hunter e dunque la sola a rifornire l'emporio. Poche ore d'assalto, trattative, scambi, razionamenti e già si raccoglievano le prenotazioni per il carico successivo. Rum, farina di segale e carne di porco erano i primi a finire, ma anche corde, munizioni, coperte di lana e coltelli. Con l'esercito che assediava New York ci si aspettava che anche Graf potesse restare a secco, prima o poi. Fino ad allora, l'arrivo del battello avrebbe continuato a richiamare famiglie lontane, facce che al villaggio s'erano viste forse una volta, gente che abitava molte miglia di distanza, lungo le valli secondarie, oltre i crinali che chiudevano l'orizzonte. Molly vide la sconosciuta attraversare lo spiazzo. Non era lì per fare acquisti. Chiuse il registro dei conti. Ordinò a Juba di preparare la cena e scese le scale. La donna si presentò, disse che veniva da Shoharie e in poche parole spiegò il motivo della visita. Le macchie sul volto della figlia erano comparse quella mattina. Dopo una notte di febbre e lamenti, sotto il velo di lacrime e sudore, piccole pustole avevano ricoperto le guance, non troppo fitte, ma abbastanza da non lasciare dubbi. L'ultima grande battaglia contro il vaiolo era vecchia di almeno 10 anni. Prima che quella bambina vedesse la luce. Molly rovistò i cassetti di un mobile massiccio, avvolse in un ritaglio di stoffa una manciata d'erbe, lo chiuse con 2 giri di spago. «Non posso fare molto per tua figlia», disse alla donna porgendole l'involto. «Il dottor Brennan ha lasciato la valle quest'inverno. Fu lui a segnare la nostra gente per conto di Sir William 10 anni fa. Non conosco altri che sappiano fare l'operazione. E anche se fosse, il marchio serve a tenere lontana la malattia dalle macchie». Non a cacciarla fuori. La donna accolse la notizia con rassegnazione. Il lungo viaggio si rivelava una fatica inutile. Perdonami, signora, la voce di Giuba spezzò il silenzio. So di cosa parlate. La signora ha ragione, il marchio non guarisce, ma può fermare molte morti. Giuba può farlo. Tu conosci il modo? La negra annuì. Nella mia terra si fa, quando il morbo arriva. Mio padre lo faceva. Basta la punta di un coltello e un po' del liquido che sta nelle macchie. I primi a ricevere il marchio furono i figli di Molly. Nei giorni successivi ebbero febbre e vomito, ma nessuno comparvero le macchie. La bimba alloggiava in una casa fuori dal villaggio. Era malata in modo lieve e il morbo che Giuba toglieva dalle sue pustole aveva la giusta forza per preparare il corpo alla battaglia senza ucciderlo nell'esercitazione. Molly mandò messaggeri su e giù per il fiume. Alle pendici dei monti Adirondacks e dei villaggi Oneida sulle rive del Susquehanna. Lei stessa andò a parlare con Nicholas Herkimer, che era stato un buon amico di Sir William e comandava la milizia ribelle della contea. Gli spiegò che nel giro di poche settimane, nei giorni che il battello dei Graf attraccava il villaggio, uomini e donne da tutta la valle sarebbero giunti a Canajoharie, molto più numerosi del solito. Disse che niente di strano si andava macchinando. Se non che il vaiolo minacciava i figli e le figlie dei Mohawk ed essi avevano deciso di difendersi. Chiunque fosse sceso all'emporio per vendere o comprare avrebbe ricevuto il marchio che allontana le macchie. Herkimer aveva sentito parlare spesso della cura che i medici chiamavano inoculazione, l'ultima volta pochi mesi prima, quando le giubbe rosse avevano salvato Quebec grazie a un'epidemia di vaiolo scoppiata tra gli assedianti. Si diceva che i soldati di Sua Maestà fossero tutti inoculati. E che Washington volesse diffondere la pratica anche tra i suoi volontari. Il vento buttava a terra le prime foglie, lo stormire dei rami confondeva le voci, fuori dall'emporio una folla mai vista. Betsy, la figlia maggiore di Molly, stava sulla porta e regolava il passaggio, scrutava volti e braccia per fermare chi già era vittima delle macchie, spiegando che no, la cura serviva soltanto ai sani e non ai malati, come invece molti speravano d'aver inteso. Dentro, la consueta penombra era attenuata da 2 grosse lampade. Molly accoglieva chi entrava, sbrigava acquisti e scambi, poi indicava una sedia e faceva cenno a Juba di procedere. L'operazione era semplice. La punta del coltello graffiava la pelle. Un sorso di rum rinfrancava lo spirito. Mentre una vecchia impaurita si accomodava sulla sedia e Molly trovava il modo di farle accettare il marchio, le voci di fuori si accesero in uno scoppio d'eccitazione. Pareva un litigio e Molly si disse che era normale, che prima o poi doveva succedere. Un malato che non vuole allontanarsi, qualcuno che si stanca ad aspettare o il solito ubriaco. Tranquillizzò la vecchia e si avviò verso l'ingresso. Parole emergevano dal baccano, ma non fece in tempo a distinguerle, a mettere insieme un brandello di senso. L'ombra, nel vano della porta, era una figura nota. Rona Terionte era di nuovo Canaio Arie.